Radio 24 Reportage. I migliori insegnanti d'Italia, quelli che sanno fare scuola oltre la scuola, di Maria Piera Ceci. C'è chi si improvvisa prestigiatore pur di appassionare i ragazzi alle scienze, c'è chi usa i numeri per aprire le sbarre del carcere, chi non ha paura di insegnare matematica a un ragazzo che in ospedale domani a lezione potrebbe non esserci più. Sono la nostra meglio docenza, si potrebbe dire. Sono gli insegnanti che sanno fare scuola oltre la scuola, li ha definiti la ministra Valeria Fedeli, che li ha scelti come i nostri migliori docenti fra 11.000 candidature nella prima edizione del Premio Nazionale Insegnanti Italian Teacher Prize, gemellato con il Global Teacher Prize. A loro vanno dai 30.000 ai 50.000 euro ciascuno, soldi che vengono versati direttamente alle scuole in cui insegnano e che verranno utilizzati per la realizzazione di attività e progetti coordinati dagli stessi premiati. E lei, Anna Maria Berenzi, la prima classificata con i 50.000 euro, farà partire In viaggio per guarire, una campagna itinerante in cui i suoi ragazzi, quelli attualmente in cura e quelli già guariti, andranno in giro per l'Italia per condividere con altri studenti la loro esperienza. Sì, perché lei, Anna Maria Berenzi, 51 anni, da 9 anni insegna matematica all'ospedale di Brescia. Solitamente quando ne parliamo di quei ragazzi per cui l'esperienza di malattia e di ospedalizzazione viene ad avere ha una ricaduta importante, quindi parliamo di malattie importanti che spesso mettono in discussione anche il futuro. Sicuramente esserci in un contesto del genere per me significa mettersi in gioco e si è lì, lo studente si è di fronte a te, lo guardi negli occhi e non ci si può esimere dal farsi carico. Come fa a insegnare matematica a ragazzini in cui a volte il futuro è anche incerto? Per fortuna oggigiorno con un tablet si può fare di tutto, nel senso che si ha il mondo in un tablet. Sicuramente c'è il discorso dell'impegno cognitivo, che apparentemente può sembrare così improponibile per chi magari non sta bene, per chi ha altri pensieri. Di fatto invece non è così, nel senso che questo vedere di ottenere dei risultati, vedere di poter partecipare, essere partecipi di una vita normale che prosegue, è un motivo proprio terapeutico importante, quindi anche studiare avere la soddisfazione di portare a casa dei risultati e sudare magari per ottenere degli obiettivi è una cosa che è molto importante per loro, dà proprio un significato a una normalità che va conquistata. Le è mai capitato di dire va bene, adesso basta, torno alla scuola tra virgolette normale perché forse anche meno carica di dolore? Sinceramente no. Sono più le soddisfazioni che le delusioni o il dolore comunque che immagino si percepisca all'interno di una scuola, all'interno di un ospedale? Beh, sicuramente le soddisfazioni sono di più di tutto, nel senso che soprattutto la riconoscenza di questi ragazzi, che non viene solo dal fatto che sentono che ti prendi cura di loro, è una riconoscenza del potersi sentire partecipi e vivi, questa è la cosa più importante. Però il dolore dell'altro c'è e ci si fa i conti e mi sembra che anche i ragazzi lo debbano sapere, insomma, che tu lo senti e si fa i conti con questo dolore tutti i giorni. La scuola è la matematica per affrontare una malattia, la matematica anche per inventarsi un nuovo modo di vivere. Daniela Ferrarello, 40 anni, per il secondo anno insegna matematica in una sezione carceraria, quest'anno nel carcere di Catania, e ci spiega cosa significa parlare di numeri a chi ha sbagliato. La matematica aiuta a ragionare, no? Quindi ragionare e poter vedere le cose da più punti di vista sicuramente è un'attività molto formativa. Per esempio io lavoro molto con i miei studenti con dei problemi, dei paradossi, no? Quindi dei problemi che sembrano impossibili e poi invece attraverso il ragionamento si va a scoprire che il problema ha una soluzione. Quindi questo chiaramente è un'attività che aiuta nella formazione personale, no? Perché poi sapere che esistono delle cose che sembrano impossibili e poi non lo sono. Quindi chiaramente questo ha un valore per tutti gli studenti e in particolare anche per gli studenti, i detenuti, i miei studenti. E Io sono felicissima di vedere spuntare in loro un sorriso, di vederli uscire dall'ora di matematica contenti. Questo mi riempie il cuore di gioia, quindi io torno a casa felice. Consolata Maria Franco, 64 anni, da 33 insegna italiano nel carcere minorile di Nisida. E così ci parla dei suoi studenti. I miei studenti sono ragazzi tra i 14 e i 25 anni che hanno commesso reati gravi, alcuni molto gravi, e che di solito in generale non hanno né un grande livello, diciamo, di istruzione né un grande interesse verso la scuola. Quindi il primo problema è quello di motivarli in qualche maniera, di incuriosirli a tutto ciò che ha a che fare con la cultura. Che cosa significa per lei a livello umano insegnare a questo genere di studenti e non in un istituto qualsiasi? Guardi, significa che io ho imparato tantissimo in questi anni, ho imparato tantissimo sul dolore, sulla sofferenza, sui modi di non funzionamento delle nostre periferie, e anche, diciamo, a rendere un po' più essenziale la comunicazione di quello che io negli anni avevo imparato a scuola e ho continuato poi a imparare per gli affari miei. Sono più le soddisfazioni o le delusioni che arrivano da questo genere di ragazzi? Guardi, questo è un luogo dove si perde facilmente, si perde molto, no? Perché sono ragazzi che partono da situazioni molto complicate e che tornano poi in situazioni che sono quelle da cui erano arrivati da noi. Quando ci stanno le soddisfazioni sono eccezionali. Ecco, il ragazzo che esce dal suo genere di vita, che riesce a trovare una dimensione da buon cittadino, con una famiglia, con un lavoro, virgolette, normali, è qualche cosa di impagabile. Però mi sa che altrettanto difficili da superare sono anche le delusioni. Certo, certo, io faccio parte di quei pochi insegnanti in Italia, per fortuna, che hanno già accumulato molti morti tra i propri ex allievi, per esempio, no? Perché sono morti per una successiva rapina finita male, per un overdose. Conosco storie a cui noi abbiamo dato tanto, che sono state per noi diciamo persone da seguire con grande attenzione e che poi purtroppo sono finite in altre carceri. Quindi il livello di dolore che si accumula è sicuramente molto alto. Però dico, mi fa anche piacere rilevare che ci sono dei ragazzi che invece in condizioni non semplici, perché per loro è uno sforzo immane, sono riusciti a cambiare vita e non è poco. Da Nisida torniamo al nord, qui siamo a Trieste, all'Istituto Comprensivo Valmaura. Dario Gasparo, 55 anni, da 20 insegna alle scuole medie. Qui non ci sono letti d'ospedale, non ci sono sbarre, ma lui, il nostro prof speciale, si è inventato un nuovo modo di fare scienza. Via banchi e libri si studia a contatto con la natura, si studia facendo esperimenti ed esperienze. Da tempo si parla dell'importanza di agire praticamente, ma forse ciò che io faccio, che forse altri non si fidano a fare, è osare un po' di più, cioè portarli in bicicletta di notte, portarli in grotta, portarli in barca, fare una serie di attività scientifiche direttamente sul campo. Quindi è ben diverso quando parlo di monitoraggio ambientale, poter fare uno studio del pH oppure della densità dell'acqua di mare immergendosi sott'acqua oppure calando sott'acqua dalla barca delle bottiglie per fare questo tipo di ricerche, di indagini chimiche, piuttosto che stare a leggerle su libro. Ecco Gasparo, ma chi glielo fa fare? Perché leggerle sul libro è sicuramente meno impegnativo, meno faticoso e forse anche meno esposto alle critiche, perché conoscendo l'ambiente scolastico ci sarà sicuramente qualche genitore che dirà che lei è un po' originale, se non altro. Qualche suo collega sicuramente la guarderà. Mi ha detto mia suocera. La guarderà strano anche qualche insegnante, qualche collega, o no? Fortunatamente no, io ho dei colleghi che mi vogliono molto bene e apprezzano quello che faccio. genitori. Mi è capitato sinceramente un'unica volta, la ricordo, sono rimasto malissimo, 10 anni fa, quando in un consiglio di classe un genitore mi ha detto: sa, siamo un po' preoccupati perché lei fa troppi esperimenti e i ragazzi non studiano dei libri. E in realtà poi devo dire che in tutti questi ulteriori 10 anni poi di attività che ho fatto da allora ho avuto sempre riscontri positivi, genitori che sorridono, soprattutto i ragazzi arrivano a casa entusiasti, di conseguenza anche i genitori che stanno dalla mia parte. Di solito comincio con dei giochi di prestigio, una lezione di scienze, perché così catturo la loro attenzione e la loro curiosità, e poi si chiedono che cosa è successo, come ho fatto a mangiare il fuoco, come ho fatto a scomparire una penna, come ho fatto a trasformare un palloncino in qualcosa di diverso. Credo sia importantissimo riuscire a lavorare sempre con il sorriso, non con quello sguardo truce che io ricordo di alcuni docenti che ho avuto quando ero giovane, che in realtà mi facevano studiare la materia per timore, per paura e non per passione. E io credo invece che i ragazzi debbano venire a scuola con felicità e divertirsi prima di tutto. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.